24 mattino. Cosa gli ha fatto Di Maio a Scalfari? Cioè, non sarà una cima, non sarà laureato, ma almeno è incensurato. Forse è per quello. Non si capisce, e invece un po' si capisce. D'altra parte, Scalfari da giovane ha votato monarchia al referendum e adesso voterebbe Berlusconi. In fondo è un lento ritorno a casa. Mm? Un lento ritorno a casa dalla monarchia a Berlusconi. Quando le vite sono così lunghe, quando sfiorano e superano i 90 anni, si toccano gli opposti, si uniscono spazi temporali diversi, dimensioni metafisiche. Ma noi qua, bando alle ciance, siamo nella concretezza delle pagine di oggi. E io voglio cominciare da due immagini. Meghan, l'attrice americana divorziata che porta il divorzio dentro la monarchia britannica, una divorziata a corte, nel 1936 urlavano fuori adultera, adesso diventa un'eroina. È un, come dire, una novelization, è un salto di qualità, non lo so, è una domanda che pongo oggi, però è un segno dei tempi. Mentre invece mi ha appassionato e mi ha colpito la storia delle molestie hot del sindaco del Partito Democratico, accusato di aver, come dire, conculcato una vicepresidente di un'associazione dicendo: guarda, i contributi ce li hai solo se mi cedi. Questa è l'accusa dei PM. Allora, in alcuni casi la prima domanda che ti fai: boh, ma sarà vero? Ma questo era uno serio, uno rigoroso? Pagina 19 su Repubblica. Parto da questo lampo perché ci serve un po' per la conferenza stampa. Allora leggi le sue parole e rimani stupito, no? Dice: si chiama Mattia Palazzi, ha 39 anni, è accusato di tentata concussione, un'accusa pesantissima. E lui dice: è un inaccettabile gioco al massacro, io sono la vittima, lo so di essere innocente e tutte le persone che lavorano con me possono testimoniare che non ho mai chiesto favori di alcun tipo in cambio di contributi, patrocini o altro. Resisto in queste ore solo perché c'è mia figlia, sto malissimo, se non crollo è per lei. E questa è la verità del sindaco. Dall'altra parte però c'è una pioggia di messaggi, addirittura centinaia di messaggi mandati alla vicepresidente, che la procuratrice capo della procura di Mantova, Manuela Fasolato, sta valutando. E questi messaggi erano avance pesanti, foto hot, sono due verità: o l'uomo ha dei buchi neri, dei lampi che lo accecano, oppure è un clamoroso equivoco. Ma allora saremo curiosi di vivere abbastanza per vedere se il sindaco riuscirà a dimostrarlo. E allora ecco il titolo che si attaglia bene a questa storia: una legge contro le fake news. Repubblica, l'apertura: Renzi, Movimento 5 Stelle e Lega, vi abbiamo sgamati. Di Maio: le vere bufale sono quelle dei media. Manovra: Ala chiede il condono edilizio. Bravo, questo ci voleva. E Berlusconi punta su un uomo, il generale Gallitelli lo vuole premier, non si sentono da 8 anni. Però io, cioè, sinceramente, ma perché ne poteva proporre me o Luca Sappino o il nostro Valerio? Non lo so. E va bene, il fondo, le mappe di oggi, sapete che è giorno di mappe, Ilvo Diamanti per Repubblica, la sinistra e la paura degli immigrati, c'è anche un grafico con tutte le, come dire, le sensibilità diverse degli elettori sugli immigrati. E sapete che è il giorno in cui Renzi propone nuovi bonus, Berlusconi propone uno shock fiscale e De Rossi dà un altro ceffone. Sono tutti condannati a ripetersi qua. Tasse, partita a rischio per Trump. Federico Rampini ci racconta che il problema delle tasse c'è anche in America, e abbiamo letto Repubblica. Il Tempo: armatori, sindacati e segreti, battaglia navale da 45 miliardi. È un'inchiesta esclusiva del quotidiano di Gianmarco Chiocci. Lavoratori italiani a casa, stranieri a bordo, uno scandalo fra giri di soldi, danni all'INPS e carte scomparse. Stiamo parlando di due delle più importanti compagnie che si combattono, Grimaldi e Mobi, e chi vuole saperne di più è un'apertura diversa del Tempo. E sul Tempo anche la notizia, poi la troverò nella mitragliata, di Alemanno contestato in autogrill come ammirante, pensate. Il foglio del lunedì è monografico e ha due grandi temi: il processo a Papa Francesco, il cattolicesimo sta andando incontro alla più grande trasformazione da molti secoli in qui, entro 30 anni i suoi bastioni saranno in Sud America, Africa e Asia, come per dire in Italia scomparirà, e poi c'è Rasa, il grillino che è in te, il dramma di una classe dirigente senza carattere, questo è il fondo, ma c'è anche l'elefantino, Giuliano, Ferrara, sempre il lunedì, uomini che si mettono a nudo a tradimento e donne che ridono di loro. Non si parla del boss che costringe o stupra, ma del 95% delle molestie raccontate, non accertate, e del retroterra di mitomania desiderante che rivelano. Vedete, le molestie sono invece il cruccio di Giuliano Ferrara, che ha uno scrupolo garantista e lo racconta sul Foglio. Belluno, prima in Qualità della Vita, e l'apertura del Sole 24 Ore di oggi con la classifica sulle città, è una classifica che dice molto nella mappa del Sole, del divario fra nord e sud, ovviamente lo avete sentito in tutti i lanci dei giornali radio, il nord ha delle creste verdi, verde scuro, di grande, grandissima qualità, il sud ha degli oceani di rosso fuoco, che sono le città dove non si vive bene. Però leggeremo anche un'altra cosa, le domande dell'ISEE, il reddito di inclusione, 6.3 milioni, questo è un indicatore di come va il paese, 6.3 milioni di persone chiedono l'ISEE. La Stampa, gli USA, fake news russe in Italia, consegnato un dossier al governo, il segretario Dem, colti sul fatto 5 Stelle e Lega, ogni 15 giorni un rapporto PD sulle bugie in rete, d'ora in poi, di nuovo, Renzi vuole allargare i bonus, Berlusconi vuole il taglio di tasse shock e il generale Gallitelli. Ma quanto mi piace, ma bisogna cercare dove sarà oggi il generale Gallitelli, che stava lì a combattere nel suo staff perché è responsabile di una cosa dell'arma, e gli è arrivata questa notizia. Vai, il giovane Silvio ha la sfida con l'ex premier, sono riusciti a polarizzare per un giorno, no? E poi Meghan, la foto, l'americana che incantò il principe martedì, finanziamento con Harry, figlio di Carlo d'Inghilterra, Harry. Il giornale, il nuovo predellino, Berlusconi lancia la sfida, il cavaliere, centrodestra unito contro il pericolo grillino, c'è la foto di Berlusconi sul predellino. Filippo Ceccarelli su Repubblica sta cercando di computare oggi quanti sono i predellini, pare che siano già 4, e non bisogna dargli una macchina. E il fondo di Sallusti, le vere fake news, le bufale rosse e a 5 stelle. Il fondo, anzi il corsivo di Vittorio Sgarbi, particolarmente intrigante oggi, ma un assaggino lo leggiamo, il femminicidio di Claretta Petacci, femminicidio. Berlusconi Renzi, duello elettorale su assegni e tasse, e c'è la foto di Giannelli, la vignetta di prima pagina, ci sono due babbi Natale, uno è Renzi, l'altro è Berlusconi, che regalano promesse come pacchi. E sempre sul Corriere della Sera, il fondo, priorità non mance di Francesco Giavazzi contro giustamente questo il promissionismo, sì, parola tremenda. Il Fatto Quotidiano, anche Fazio riabilita Berlusconi, che Silvio che fa? Nessuna domanda, mezz'ora di comizio e menzogne, la foto di Fazio che stringe la mano a Berlusconi. E poi, tan, città metropolitane che flop. Pensate, Salman Rushdie, sempre da questa prima, lo scrittore del nuovo romanzo La caduta dei Golden, Nerone indiano e vive a New York. Ma sì, pure questa si può fare. Il Messaggero, a Ostia si spara, il governo la blinda. E poi oltre il caso Amazon, rivoluzione nel lavoro, ma la politica indietro, il fondo di Alessandro Campi. E poi ci sono i due giornali sportivi per raccontare questa domenica di passioni del calcio. La Gazzetta dello Sport, già Napoli-Juve, venerdì il big match che sa di scudetto, vero, hanno vinto entrambi e si preparano a questa battaglia. Il Corriere dello Stadio affranto, Daniele che fai? C'è la foto dell'arbitro che mostra il cartellino a un incredulo De Rossi. Il blackout di De Rossi, uno schiaffo da rigore alla Padula costa caro alla Roma, chiede scusa. E vi volevo però fare l'ultimo fotogramma, perché le foto vanno raccontate sui giornali di rassegna stampa, ed è dalla Polonia, sempre dalla prima di Repubblica, e c'è una manifestazione di un partito ovviamente estremo e radicale che porta in piazza delle forche con appesi dei quadri. Sono le foto dei deputati dell'opposizione. 6 eurodeputati e l'opposizione contraria alle misure liberticide su giustizia e sicurezza pubblica, e gli hanno mostrato le forche appese. Ci arriveremo anche noi in Italia? Speriamo di no, mai. Ci fermiamo per il meteo e torniamo subito dopo per la lettura. Curiamolo, leviamogli il metadone. Mattino. L'altro giorno ho invitato a pranzo i miei compagni di liceo, uno è arrivato sostenuto da un figlio, un altro col bastone, si sono seduto e gli ho detto: ma io avevo invitato i miei compagni di scuola, loro, non i loro genitori. E va bene Silvio, perfido, sempre su quel filo lì della malinconia, del ritorno della vecchiaia, il berlusconismo vintage. Sarà questa la risposta della campagna elettorale? Boh. Allora, vi dicevo, inizio le letture con un assaggio di Giuliano Ferrara. Uomini che mettono a nudo a tradimento e donne che ridono di loro. È sul Foglio di oggi e dice così: la violenza sulle donne è esacrabile, ma gli adulti dissenzienti, cioè gli amanti o potenziali amanti, si incontrano, si scontrano, si titillano, si propongono, si avvicinano, si toccano, si distanziano, si nega, si danno, si parlano, si tolgono la parola, si scrivono, si desiderano, si giudicano belli, sexy, repellenti, poi cambiano idea, si scambiano i ruoli, i soldi, il prestigio, gli schiaffi, ombre conscia e inconscia, e spesso si penetrano e si lasciano penetrare. Una delle più belle, neanche sotto tortura dirò chi me l'ha raccontata, è questa ed è vera. Tre ragazze vanno in gita all'estero, due di loro stigmatizzano la violenza della penetrazione e la terza esita, dubita, non capisce bene di che stiano parlando, pensa che la penetrazione non sia propriamente un atto di violenza. Al ritorno della gita, le due che peroravano la causa dell'inviolabilità del corpo femminile annunciano liete: siamo incinta. Ale! Si può cominciare così insieme ai Rolling Stones, chiedendoci che cosa accade per esempio con Sgarbi. Avevo detto che c'era questo corsivetto gustoso, perché Vittorio sta prendendo il ritmo sulla prima pagina del giornale su Claretta Petacci. Ebbene, dice che è andato sul Lago di Como, una giornata meravigliosa, le opere d'arte. Ma poi dice, ma poco più sotto, la violenza ha prevalso, macchiando la lotta di liberazione dell'inutile assassinio di Mussolini e Claretta Petacci, 28 aprile del 45. La targa dell'Ampi rivendica il crimine come un atto eroico. La resistenza pose fine così, scrive Sgarbi, al regime fascista. E quali responsabilità aveva la Petacci? Essere stata fino all'ultimo vicina a Mussolini? Oggi che si celebra e si difende in ogni mondo la donna, perché nessuna pietà verso questa innocente barbaramente uccisa? Un caso palese di femminicidio aggravato da un cieco desiderio di vendetta. Perché neanche una parola della Boldrina sulla Petacci? E davanti a una violenza così ingiusta non sia tanto improvvido il sindaco locale da dedicare la piazza del delitto ai partigiani tremezzini. Prevalgano nei luoghi della bellezza la pietà e l'oblio. Sgarbi, controcorrente. Femminicidio della Petacci. Allora, dobbiamo entrare dentro questo duello di Renzi e Berlusconi, che ieri si sono fronteggiati a distanza. Servizio civile per ragazze e ragazzi, 80 euro le famiglie con i figli. Agnese Landini in platea, che viene sempre fotografata, poverina, anche sul Corriere, con davanti la Boschi. Va bene. Matteo cita Blade Runner, l'androide che dice «voglio più vita» e si interroga. Al fondo dell'uomo c'è una domanda secca: «voglio più vita, padre». Maria Teresa Meli, sulla pagina 2, ci spiega che non ci sono più i numeri per far passare lo Ius Soli. Sul biotestamento invece c'è anche il sì dei grillini. È un Renzi in modalità elettorale, come dice lui, quello ieri, che preferisce parlare di cose concrete piuttosto che di tatticismi politici. E infatti dedica alle coalizioni di centrosinistra solo qualche cenno del discorso, dando il ben servito a chi vorrà far parte e garantendo pari dignità agli alleati. Dopodiché promette rispetto e nessun rancore degli scissionisti. Ad attaccare MDP del resto ci aveva pensato poco prima l'applauditissima viceministra Teresa Bellanova. E dice Renzi, Spavaldo: c'è un grande testa a testa fra Berlusconi e Di Maio per capire chi fra loro arriverà al secondo e al terzo posto delle elezioni. E vai. Invece dicevo Berlusconi. Berlusconi mostra l'ombrello raccontando di aver trovato dei ragazzi che sei giovanotti che lo prendevano un po' in giro, e lui gli ha risposto con il sonetto di Dante recitato a memoria: Guido, vorrei che tu, Lapo ed io fossimo presi per incantamento. E poi gli dedica il gesto dell'ombrello. Andrea Senesi, sulla pagina 3 del Corriere: le donne azzurre in camicia bianca, la De Girolamo, Presti Giacomo, la Ravetto, tutte a Milano per applaudire Silvio. E poi il selfie della giornata: fra la Boschi e Lotti non c'è nessuna frattura fra noi, e si fanno fotografare sorridenti. Mamma mia, se quello è un sorriso di riconciliazione, siamo a posto. Dicevo che sul Corriere c'è anche una storia di cronaca che colpisce molto, ed è quella... chiudo la pagina politica con Calenda. Calenda racconta di aver litigato con Renzi e gli dice: Matteo, stai sereno. Con Renzi nella parte di costruzione della spinta di piano industria 4.0 ci ho litigato nel modo di lavorare insieme. Non sono l'unico, però sono uno dei pochi, dice Calenda, Andrea Ducci sul Corriere a pagina 5, a non demonizzarlo. Una rottura, insomma, della sintonia che ha indotto l'ex premier a scegliere Calenda inizialmente come ambasciatore a Bruxelles e poi come ministro. Poi c'è Del Rio, che non sa se si ricandiderà, e poi c'è Carrai, l'uomo della cyber security, che parla di fake news sul Corriere della Sera a pagina 6. Sono le segnalazioni delle interviste tutte interessanti di oggi. Ma vi dicevo che ci discutevamo questa mattina in redazione qui fra di noi, esiste questo reato odioso ma molto difficile da circoscrivere, che è l'istigazione all'anoressia. Questo si ipotizzano i carabinieri. Il pezzo è di Simona Lorenzetti sul Corriere a pagina 18, che hanno agito su denuncia di una mamma di Ivrea. Cioè, questa mamma poverina ha visto la figlia che deperiva, che entrava nel trip dell'anoressia, l'ha portata in cura e alla fine ha ravvisato una colpa in un blog in cui si spiegava come vomitare dopo aver mangiato, in cui si davano consigli di, diciamo così, di profilassi alimentare, e gli agenti si sono infiltrati, questo è interessante, hanno impiegato mesi a scovare la donna misteriosa ai Porto Recanati. I siti ANA, così vengono chiamati, sono gruppi segreti a quali si accede con le credenziali. Per poter entrare in questo mondo i poliziotti hanno creato un falso profilo, si sono spacciati per una quindicenne che voleva perdere 10 kg, hanno navigato per giorni guadagnandosi lentamente la fiducia dell'amministratrice. Quando sono stati ammessi tra gli adepti è stato loro dato un numero di cellulare. Così, scrive Lorenzetti sul Corriere della Sera, sono entrati in contatto con la blogger e con decine di altre ragazzine pronte a tutto pur di perdere chili e dimagrire. Fatto sta che questa ragazza che gestisce questo blog di 19 anni è stata denunciata con questa idea di reato: istigazione all'anoressia. Boh. Spari! Spari e fucilate, pistolate a Ostia, di fronte a casa degli Spada, lo leggo dal Tempo, dal Messaggero, non dimentichiamoci perché sono finite le elezioni, allora due pagine del Tempo, notte di spari e vendette tra clan, così Ostia diventa Gomorra, 5 colpi di pistola contro la porta di Silvano Spada, preso a calci l'ingresso dell'abitazione del fratello Giuliano. In retroscena di Silvia Mancinetti, per chi vuole capire, la testata di Roberto Spada ha rotto equilibri consolidati e il quartiere diventa terreno di scontro fra bande per avere il predominio. Ma pensate, pensate che cosa accade in questo paese. E ci chiedevamo altre cose, dove ha sbagliato il Milan? Sì, siccome è sempre in omaggio ad Alino, martire nostro di civiltà e ai tanti rossoneri che soffrono, la prosa dura di sconcerti sul Corriere della Sera, e che dice così: temo sia un Milan semplicemente sbagliato, pagina 35, a volte gentile, altre sfortunato, ma senza il tono vero di una squadra. Montella ama i giocatori tecnici e ha ragione a priori, ma per esempio un centrocampo con Bonaventura e Montolivo non ha forza di Serie A, è buono al massimo per un'illusione di gioco. Mancano poi gli attaccanti per forzare le partite. Nessuno ormai chiede al Milan di giocare bene, gli si chiede almeno di segnare e qualche volta di vincere. Sconcerti, cattivissimo, ma forse questa domanda se la fanno tanti bianconeri, rossoneri dopo l'ennesimo pareggio, il diavolo cinese si trova un po' in difficoltà. Ci fermiamo per le strade e torniamo subito dopo. Io no che non mi schiodo, non mi schiodo, io no che non mi schiodo. Vabbè, insomma, avete capito. Mattino. Io non creo niente, io possecco e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Bella anche questa, abbiamo cambiato citazione, ma questo discorso di Gordon, caro Gordon, veramente memorabile, andrebbe stampato nei libri delle scuole. Allora, volevo solo fare una piccola chiosa su il governo e gli acrostici, con queste sigle che non si capisce niente, cioè veramente, pensa come noi poveri giornalisti dobbiamo titolare. Allora, pensate che oggi a pagina 3 del Sole c'è un titolo così: più richieste con il passaggio al REI, dopo la circolare da venerdì parte la corsa al nuovo beneficio che sostituisce il SIA. Il REI, il SIA, ovviamente sì, è il reddito di inclusione, ma ragazzi, si soffre tanto, Chiamiamo le cose con i loro nomi, basta con l'ufficio, se non c'è un ufficio al governo, la Tari, la Tarsu, qualcuno che ne spara uno al giorno. E allora oggi l'apertura importante del Sole a pagina 3, Francesca Barbieri e Cristiano Dell'Oste, è sull'ISEE. Che oltre la soglia dei 6 milioni di domande, ovviamente si tratta di un indicatore molto importante, perché come sapete l'ISEE è il sussidio anti-povertà. Allora, il totale del 2016 è già stato superato, e non di poco. La scorsa settimana, in base ai dati forniti dall'INPS al Sole 24 Ore, erano stati presentati 5,74 milioni di ISEE, quasi 200.000 in più rispetto all'anno precedente. E se il trend sarà costante, cosa più che probabile, visto che da venerdì prossimo si potrà chiedere il REI, il reddito di inclusione, al 31 dicembre nel database dell'Istituto di Previdenza ci saranno la bellezza di 6,27 milioni di domande. Anche se il record di 7 milioni e mezzo di dichiarazioni nel 2011 è ancora lontano, l'indicatore della situazione economica familiare gira a pieno regime dopo il blocco dell'inizio del 2015 e i problemi dell'anno scorso legati al computo delle famiglie con disabili e all'indicatore per le tasse universitarie. Quindi sta crescendo, questa domanda è molto forte ed è uno degli indicatori dello stato di salute del paese, tant'è vero che il Sole dice nell'occhiello welfare e ricchezza. E però sempre dal Sole volevo segnalare Due segnalazioni importanti: i sindaci che abbandonano i giudici di pace, pagina 4, e poi l'equo compenso a perimetro stretto, cioè il nodo dei parametri per le nuove attività senza albo. Dubbio sul rapporto fra i privati e la pubblica amministrazione sulla remunerazione adeguata. E infine l'ultima cosa che sicuramente farà discutere: imprese, la roulette dell'Atari, le bollette pazze dell'Atari alle imprese. Mentre stiamo parlando dei giorni trovati a pagina 7, mentre la tassa sui rifiuti rimane al centro della cronaca per la questione della tassazione moltiplicata su box e cantine, per le imprese il problema resta un altro: nei loro negozi e nei loro magazzini l'Atari si gonfia nel complicato gioco delle, virgolette, assimilazioni, che spesso portano sotto il raggio d'azione del tributo anche le aree dove la produzione di rifiuti non c'è. Capita così che un albergo di 1000 metri quadri paghi 1200 euro l'anno a Trani e che il conto sia di 13.000 euro a Taranto. Cioè c'è un po' di differenza, eh? Allora andiamo alla mitragliata. L'immagine simbolo di oggi, immagine simbolo, signori, nel tempo della precarietà, nel tempo delle feste che arrivano, non poteva essere che Babbo Natale, il simbolo di congiunzione fra sofferenza e riscatto, fra crisi e occupazione. E allora sentite questa storia: ex operai, ex dipendenti, disoccupati, tutti in fila per il posto da Babbo Natale. Gilberto Bazzoli, a pagina 22 del Corriere della Sera, a Cremona c'è un bando per fare Babbo Natale nei giorni di festa, un lavoretto da 9 giorni in costume, 1500 euro, quindi ben pagato, e si presentano a centinaia, pensate, 500, il requisito era di essere over 50. Non solo dovevano andare vestiti, truccati, con la barba posticcia e costume, non solo dovevano avere questo requisito dell'età, ma dovevano anche raccontare una fiaba. E qui Carlo Capelli ci racconta Gilberto Bazzoli, con la sua voce suadente, sbaraglia i quattro avversari finalisti. Lui, che nella vita ha fatto prima l'impiegato e poi l'operaio, di recente ha avuto qualche difficoltà. Questa somma, dice, mentre raccoglie il riconoscimento, mi fa molto comodo. Racconta quando si riprende dalla commozione alla lettura del verdetto: è la sua prima gara di questo tipo, ma sapeva di avere buone possibilità. C'era un bambino che mi fissava, poi ha chiesto alla mamma: perché quel signore non è vestito di rosso? E lì ha capito che doveva concorrere per Babbo Natale. Quasi un segno del destino. 1500 euro per 9 giorni da Babbo Natale. Quanti lo avrebbero fatto? Sul Fatto, a pagina 2, il parroco non benedice la nuova sezione del Partito Democratico. Attimi di panico, che succede? Allora l'ex ministro Fioroni, che come sapete è un cattolico di lungo corso, dice: va bene, la benedico io. Dici: è finita? No, perché la curia si è arrabbiata e ha vergato un crudele comunicato di stampa dicendo: si tratta di una grave strumentalizzazione, si tratta di parole irrispettose e provocatorie, la condanna, lo stigma. Non si può benedire, direi di sì, sono d'accordo, se non si è prelati, se non si è sacerdoti, non si può benedire la sede del PD. E allora ci sono altre notizie, tante, ma ne volevo prendere una dal Messaggero, a pagina 15. E a pagina 15 avevo trovato questa notiziola ed è tremenda, però. Allora, soccorrevano i raccomandati, così Rigopiano fu abbandonato. Di nuovo dalle carte dell'inchiesta della procura di Pescara alle telefonate, i messaggi in quelle ore. E sentite, mentre arrivavano tutte le richieste di aiuto, il capo segreteria del presidente della regione diceva: no, e quello vuole lo spazzaneve lì, quello vuole lo spazzaneve là, finché non si arriva alla richiesta del direttore dell'hotel Rigopiano. E sapete cos'è accaduto a Rigopiano? Sapete cosa è accaduto a Rigopiano? Che da ore era completamente isolato, e mentre parlano il capo segreteria e il responsabile dell'ufficio, quello dice: questi qui dell'albergo non devono rompere i coglioni. Allora, siccome c'è morta della gente in questa storia, e siccome tutto potevamo immaginare che anche, tranne che anche l'emergenza, fosse dominata dalle raccomandazioni, oggi si chiude la mitragliata con un segno nero, con questa macchia. Questa cosa è una vergogna. Ci fermiamo, GR, e torniamo dopo con i cani e con i gatti. Ale!